Stretta sta via, a gente non c'è capo, se fa la processione che cammina piano piano, non è morto nessuno, non è osante nessuno, non si sente la voce e non suona la campana, e intanto corre aspetta. La buona fontana e chiama in capo a creatura e sarra buia sta luna con la funa, mamma porta lontana, mamma porta lontana, a tuo cielo che cielo non se fa mai scuola. Non spunta mai, se perde l'interprete, niente carta ravugliata, sotto alle vere mura, casa rampa che giura, e gli stemma riuorna, e serate senza pane, e intanto cuore aspetta, che sarà pane fontana. Fa mai scuro e chiama in terra nessuna, vuressa come anna per spremere l'ulure in tasto sciuma amara che non conosce amara, perché amare è lontana pure sta vicino. Sto su mamma.